Ma questa distanza non rimane vuota, perché ci sono così tanti elementi che si trasformano in fondamentalismo, l'estremismo, il nazionalismo, il razzismo, e questi creano una nuova realtà. And fanatic and fundamentalist and nationalist and racist, and they will create a new reality. E questo era David Grossman, ora in libreria con Applausi a scena vuota, pubblicato in Italia da Mondadori. E ora veniamo a un libro, a un romanzo di cui si sta parlando molto. Se ne sta parlando molto per i fatti di Parigi, per l'attentato a Charlie Hebdo. Il libro è Sottomissione, scritto dal francese Michel Houellebecq, pubblicato in Italia da Bompiani con la traduzione di Vincenzo Vega. Se ne sta parlando molto perché è arrivato in Francia in libreria il 7 gennaio, proprio il giorno dell'attentato al giornale satirico Charlie Hebdo. E se ne sta parlando molto perché immagina, ormai insomma la trama è abbastanza nota, immagina una Francia nel 2022 dove al potere arrivano i musulmani moderati. Il sistema quindi sociale e politico della Francia cambia, le donne per esempio restano a casa dal lavoro, e questo perché è un modo per diminuire la disoccupazione. Ci sono quasi dei vantaggi economici che i francesi iniziano a percepire. Il protagonista è un professore universitario che lentamente si converte all'Islam, ma questa conversione, di cui poi il nocciolo della questione, in realtà non avviene tanto per credo religioso, ma soprattutto per una ragione opportunistica, di natura economica, mettiamola così. E allora sentiamo qualche estratto da Sottomissione, scritto da Michel Houellebecq. Quando tornai in facoltà per fare lezione, ebbi per la prima volta la sensazione che potesse succedere qualcosa. Che il sistema politico nel quale mi ero abituato a vivere sin dall'infanzia, e che da un bel pezzo si stava palesemente incrinando, potesse esplodere di colpo. Non so esattamente cosa mi diede questa impressione. Forse fu l'atteggiamento dei miei studenti di master. Per quanto amorfi e depoliticizzati fossero, quel giorno sembravano tesi, ansiosi. Tentavano visibilmente di captare brandelli di informazione con i loro smartphone e i loro tablet. In ogni caso, erano più disattenti del solito alla mia lezione. Forse fu anche l'andatura delle ragazze in burca, più scure e più lente del solito. Avanzavano tutte e tre affiancate in mezzo al corridoio, senza rasentare i muri, come se fossero già padrone del territorio. Fu solo due settimane dopo il mio ritorno che ricevetti la lettera da Parigi 3. Il nuovo statuto dell'Università Islamica di Parigi 3 Sorbona non mi consentiva di proseguirvi l'attività di insegnamento. Robert Redigé, il nuovo rettore dell'università, aveva personalmente firmato la lettera. Mi esprimeva il suo profondo rincrescimento e mi assicurava che la qualità dei miei lavori universitari non era minimamente in questione. Avevo ovviamente la possibilità di proseguire la carriera in un'università laica. Tuttavia, qualora preferissi rinunciare a tale alternativa, l'Università Islamica di Parigi 3 Sorbona si impegnava a versarmi da subito una pensione, il cui ammontare mensile, indicizzato sull'inflazione, partiva da un importo di 3.472 euro. Ma lo stipendio è molto interessante. Già, la pensione non è malaccio. Lo stipendio è molto di più. Quanto? Il triplo. 10.000 euro al mese per un docente mediocre, che non poteva produrre alcuna pubblicazione degna di tale nome e la cui notorietà era nulla. Avevano davvero mezzi illimitati. E questi erano alcuni estratti dal romanzo Sottomissione di Michel Houellebecq, pubblicato da Bompiani. Spesso che i romanzi a volte anticipano la realtà, ed è quello che è successo con il romanzo La Resa, scritto da Fernando Coratelli e pubblicato da Gaffi. Ne parliamo dopo aver parlato di Sottomissione, il romanzo di Houellebecq, perché hanno qualcosa in comune. Devo dire che Coratelli l'aveva scritto, e questo libro è stato pubblicato nel 2013, ma insomma i libri non invecchiano mai, ed è più attuale dell'attualità, potremmo dire. Questo romanzo immagina, ipotizza, per fortuna è puramente fiction, un attentato nella metropolitana di Milano, un attentato terroristico. Ma la cosa fondamentale, sì, è l'attentato sicuramente, ma è l'impatto che questo evento così forte, questo attentato, questo atto terroristico ha sulla vita di quattro persone, comprese fra i 30 e i 40 anni, quindi con tutte le insicurezze a volte legate a quella fascia di età, il vorrei essere stabile ma non ci riesco e così via, sia nella vita privata che nella vita lavorativa. Tra l'altro la canzone che stiamo sentendo è Road to the Peace di Tom Waits, che viene citata nel romanzo L'Arese, che tra l'altro appunto ha fatto anche da sfondo al book trailer. Allora Coratelli, ecco, parlare oggi di un romanzo che ha immaginato un attentato terroristico di matrice islamica a Milano fa venire un po' i brividi. Per fortuna si tratta ovviamente di pura fiction. Però a te adesso, come dire, riprendere un po' in mano questo romanzo che hai scritto un po' di tempo fa, nel momento in cui abbiamo visto tutto quello che è successo a Parigi, nel momento in cui ci sono tutte queste polemiche sul romanzo di Houellebecq, che effetto ti fa? Ma ti senti un precursore? Ma diciamo che vorrei evitare l'aggettivo profetico. No, assolutamente no. Precursore un pochino, sì, anche se in realtà, dobbiamo dire drammaticamente, ci sono stati prima altri tre attentati, cioè le Torri Gemelle a New York, poi Madrid e poi Londra. Cioè questo romanzo io lo scrivo alla fine del decennio passato, cioè 2008-2009, in quegli anni lì, successivamente ai tre grandi attentati, diciamo, di matrice Al-Qaeda in Europa. Forse un po', sì, un po' precursore, sì, ma poi con qualche differenza, ovviamente. Qualcuno mi aveva detto, ma forse sei arrivato tardi, mi ricordo. È vero, quando... ricordo, sei arrivato tardi perché ormai si parla di crisi finanziaria, eccetera, invece purtroppo, ai noi, io, siamo tornati a parlare, sì, di terrorismo. E io allora già risposi a chi mi aveva fatto questa, chiamiamola così, piccola obiezione, temo che sia tipo lava sotto... Fuoco sotto la cenere. Il fuoco sotto la cenere, sì, sì, è tipo lava, cioè sembra che scemi, ma non sta scemando. Perché secondo me c'è un vero e proprio un problema socio-economico in realtà dietro questi... Cioè, tranne l'attentato forse del 2001, che è quello più spettacolare del resto, l'attacco all'America, già in Spagna nel 2004, poi a Londra tantissimo, ma anche quello adesso francese, sono sempre di più gli attentatori che sono... nati nel territorio europeo. E infatti anche nella resa io... E vivono però nelle cosiddette periferie, delle grandi città. Infatti anche nella resa i terroristi che, diciamo, si fanno brillare o comunque che commettono l'atto terroristico sono italiani di seconda generazione. Per cui è più un aspetto sociologico e meno di guerra di civiltà. Veniamo proprio alla trama del tuo romanzo. Prima dicevo che l'aspetto anche poi più bello, più romanzesco, è vedere l'impatto che questo attentato ha nella vita personale di questi quattro personaggi. Allora c'è Tommaso, che è un antiquario, Agata, che è una manager, Andrea invece, che è uno che vive un po' di espedienti, ha una vita sentimentale anche piuttosto precaria, e infine c'è Teresa, che fa l'avvocato. In che modo questo attentato cambia il loro modo di pensare, ma proprio sulle vite personali? Sì, io credo che forse questo Je suis Charlie che c'è stato, ecco, in questo mi sono sentito forse più precursore più degli attentati in sé. Cioè che una buona parte del romanzo racconta o io ho immaginato, e forse questo mi ha anche in certi momenti fatto accaponare la pelle subito dopo gli attentati di Parigi, perché ho raccontato, ho immaginato Twitter, Facebook, o la grande manifestazione, il serpentone che si snoda per tutta Cadorna, immagino io, con le autorità davanti. Che... La reazione, è insomma, la reazione, della è la reazione che purtroppo è un po' standardizzata, è brutto da dirsi così, però forse noi occidentali siamo un po' standardizzati. E viene in mente quella famosa frase di una canzone di Fabrizio De André che diceva: lo Stato che fa? Si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Quindi questi personaggi alla fine, loro sono dei sopravvissuti perché mancano, diciamo, l'appuntamento all'attentato per un errore, diciamo... Una casualità, quindi sono dei sopravvissuti, al contrario. E da quel momento, spaventati, o avendo visto la morte in faccia, o per la prima volta hanno visto... il terrore dal vivo, vogliono reagire e quindi vogliono cambiare, ognuno di loro vuole cambiare in meglio la propria vita, le proprie idee, solo che poi dopo il momento iniziale, la sfuriata iniziale, si scontrano anche con sia con i problemi della realtà, realtà nostra, e sia forse anche con quella leggera, sottile indolenza che forse ci caratterizza, ci un, caratterizza po'. Un po'. E infatti Andrea dicevamo che quello che ha una vita amorosa anche più precaria, oltre che tutto il resto, vuole tornare dalla moglie, dal figlio. Teresa, che fa l'avvocato, vuole prestare, come dire, il suo lavoro per il gratuito patrocinio, come sì. Si dice. La manager vuole andare a fare volontariato in una sì. ONG. L'unico è Tommaso, l'antiquario. L'unico è Tommaso, perché Tommaso, diciamo, è dei quattro personaggi è quello, chiamiamolo così, più, diciamo, ma intellettuale, nel senso che ha già un passato, lui ha un passato politico nell'estrema sinistra. Quindi è uno sguardo disincantato. Ha uno sguardo disincantato, sì, ed è l'unico che forse non ha quel tipo di reazione dei quattro. Devo dire che, riprendendo in mano il tuo romanzo La Resa, mi ha fatto una certa impressione leggere poi le righe che avevi dedicato appunto a questo ipotetico attentato. Tu scrivi: è uno spostamento d'aria, un boato che fora i timpani, che scalcia le colonne, che sbreccia la tettoia, che alza polvere, che muove l'acqua della fontana, che fa tremare l'ago della piazza. Sono le 9:54, l'orologio digitale della stazione va in frantumi. A volte poi, leggendo queste righe, non so, adesso mi veniva in mente Bologna, la stazione di Bologna, cioè certo. Gli attentati di qualunque matrice siano, poi negli effetti che hanno sulle persone e sulle cose si somigliano un po' tutti. Tu come hai fatto un po' ad immaginare questa scena e anche poi tutto il resto, anche della trama, l'impatto appunto di questo attentato nelle vite delle persone? Tu hai detto una cosa correttissima. Io, avendo un po' per passione, un po' anche per lavoro, buona parte del lavoro di editor nel passato, soprattutto della saggistica, ho a lungo approfondito proprio i cosiddetti anni di piombo. Per cui ammetto di aver visto tantissimi servizi, anche poi grazie a YouTube, eccetera, ho comunque riletto libri. Per cui diciamo, messo mano all'immaginazione e anche alla visione di determinati filmati, per cercare o provare a vivere quella situazione, quella sensazione. Il romanzo di Fernando Coratelli, ve lo ricordo, si intitola La Resa, pubblicato da Gaffi. È un romanzo che vi consiglio, sia perché, insomma, è un bel romanzo e ben scritto, ma poi in questo momento, secondo me, fa riflettere, fa comprendere alcune cose di quanto sta succedendo, anche se, ripetiamo, per fortuna si tratta di pura fiction. La Resa, Fernando Coratelli, pubblicato da Gaffi. Anche per oggi è tutto, grazie in regia a Fabio Cantadori. Come sempre vi ricordo che trovate il podcast su radio24.it, ci sono tutte le puntate d'archivio del Cacciatore di Libri, siamo su Facebook come il Cacciatore di Libri - Radio24 e su Twitter potete seguirmi come Ale Teddina. Una buona lettura a tutti da Alessandra Tedesco.